Sì, vabbè, beh, per forza, non è che poi... Non è che puoi, cioè, fare iniziare e poi molli, non ti dimentichi tutto dopo. Adesso ti faccio l'esempio, per prendere la patente adesso, ora come ora, ci sono cartelli nuovi. Ma la patente della macchina, secondo me, la cosa più semplice, una volta che poi ti memorizzi i cartelli, le cose, io non la vedo difficile la patente, cioè veramente ci sono cartelli nuovi, magari te ne esci dei cartelli, 10 cartelli, 15 cartelli, da quando sono uscito io per dire la patente tanti tanti anni fa, devi stare attento magari alle cose nuove, per dire le infrazioni, quelle cose lì, che cosa rischi, i punti della patente, non sai cos'è che ti fa confondere, infatti quando ho preso mia figlia, quelle le patenti, con la patente A puoi fare quello con la B2, AB3, quelle cose che ai tempi meno non esisteva, c'era soltanto la patente A per i ciclomotori, poi la B per gli autoveicoli, c'era 35 quintali e poi C e D, e c'erano 4-5, allora me ne sono 20 di battenti. E vabbè, ma ci sono nuovi cartelli, come ti ho detto, ti può fare 1000 domande su un divieto, capito? Che cosa serve, cosa non devi fare, può passare un pedone, può passare una... per farti capire, ecco, ti fa 1000 domande. Sì, ma non sono tante, Luca. Allora, chiunque, a meno che non sia proprio uno che non sa nulla, delle 1000 domande, nel libro ci sono 1000 domande, di queste 1000 domande 500 sono semplici e le sanno tutti, per dire divieto d'accesso, divieto di svolta, passaggi pedonali, quelle cose lì, ti studi le altre 500, di queste 500 ce ne sono 200 che non conosci, per cui te le devi studiare bene, e quelle 300 che magari eri dubbioso, alla fine si riducono, ma qua nel discorso della patente radioamatoriale, l'argomento dell'elettronica è talmente enorme e vasto, ecco, devi spiegare che non ti faccia una domanda impostata in un modo strano, cioè a me quando me l'hanno fatta l'altra volta c'era una domanda, alla fine dice era una domanda trabocchetto, esatto, e l'ho persa, io ero sicuro di averla fatta giusta al 100%, invece dice no, non era potenza reale, era potenza dissipata, e te cacchio, non ci avevo pensato, poi ragionando era così, però cacchio, fai domande più tranquille, la volta che mi hanno chiesto di Dio di laser, cioè domande assurde, cacchio, che cacchio le hai mai usato il Dio di Lars. Comunque te ne sei uscito subito, là diciamo. Quanto è durato l'esame? Sarà durato 5 minuti. Quando sei pronto, Luca, io ero pronto, pronto nel senso di quello che mi hanno chiesto, poi magari mi chiedevano qualcosa di strano e le sbagliavo tutte le domande. Quello che mi hanno chiesto ho risposto a cosa, a tamburo battente, non ho avuto esitazione. L'unico, non dico esitazione perché l'ha impostata in un modo strano la domanda e me l'ho fatta ripetere. La domanda riguardo alla frequenza di risonanza, mi ha detto di una cosa succede se un'antenna, un dipolo, allunghiamo, l'allunghiamo, coso. E io le ho risposto in un modo, però lui voleva che dicessi, e dice no, voglio capire la cosa succede alla frequenza di risonanza. Allora gliel'ho spiegato, la frequenza risonante aumentando la lunghezza dell'antenna diminuisce, è inversamente proporzionale. Io gli ho detto reciproco, e lui come reciproco? Non riusciva a capire, allora, ho detto è inversamente proporzionale. Vedi. E quanti l'avete? Vabbè, l'esame in quanti l'avete adatto? Allora, gli esami dovranno essere candidati 26, però penso che qualcuno non si sia presentato perché hanno anticipato. 26, di cui 26 ce n'erano una decina di quelli che c'avevano l'esenzione parziale, quelli tipo un elettrotecnico, un laureato in ingegneria elettronica, cose così, o scienze delle comunicazioni, quelli c'avevano l'esenzione parziale e li chiedevano solo le normative, mentre prima non ti chiedevano neanche quello, quando ai tempi prima di questo Covid, cioè una volta c'avevi un attestato che eri ingegnere elettronico, automaticamente passavi, te la davano d'ufficio la patente, o radiotelegrafia fissa di bordo o cose del genere. È di sardo solo tu c'eri? No, stavo parlando di sardi e bu, questa è la Sardegna, 26, ce l'ho l'elenco, qua, l'ho cancellato, se no te lo mandavo, però sinceramente non ne conosco neanche uno, perché mi ha detto che ci doveva essere questo tipo che conosco, il fratello di un amico, però non si è presentato, me l'ha detto Marco me l'ha detto, che questo di Castel Sardo stava studiando da un bel, ed è la seconda volta che si rifiuta, cioè va e poi non si presenta. Certo. Comunque la spesa è minima, no? Quant'è? La spesa sono lavacapo a 16 euro che la vogliono, della lampada, so, perché che cacchio fai? Una volta gliela mandi via PEC la cosa, che bisogno c'è, io gliel'ho mandato via PEC. Poi ci vuole un versamento, mi pare che sia di 25 euro, una cosa del genere, c'è il versamento e basta. Se fai una, fai una cosa e l'altra, quasi 40-50 euro, dai. Più o meno così, più o meno, dai. Sta fischiando Luca. Fischiando? Ehi, qua c'hai roba accesa, cuffie. No. Non parlare. Ah, c'è cornamusa, guarda una cornamusa. Televisore. No, mi è sembrato che ti eri abbassato il segnale, no, ma portante fissa, per quello ti sei abbassato un pochettino. Poi ti spiega, non mi devi spiegargli tutto questo fatto, portante modulata, senza, in assenza di modulazione, quanto sale la cosa, il segnale, eccetera. Ma questa non mettono la portante? No, adesso no. Poco fa c'era un segnale 9, quasi 9.40, quando stavi parlando tu, ha dato tun tun due colpi. Non so chi sia perché è un segnale che non conosco. Beh, certo. Non c'è problema. Sì, vabbè, comunque. Si è riuscito, va. Va bene. Ma c'è coso. Gliel'ho chiesto attore. Vabbè, attore, volevo parlare con Gio Maria, sono squalo. Che lui l'esame non è adatto. Come mai? Perché era online. Perché? Perché era online. E quindi se sei online, se hai studiato cosa c'è? Ce l'ha detto. Lui ha detto che lo fa a Cagliari, non so quando. Tu fai conto che adesso li facciano online, che secondo me è il sistema migliore, perché ti eviti di andare a Cagliari, perché devi presentarti alle 8 del mattino, dirimi, non pensa che andi così, devi andare alle 8, l'esame inizia alle 8 e mezza, per cui devi partire alle 5 del mattino, arrivi lì, tutto, parcheggi non ce ne sono, lì ti devi trovare a 2 km il parcheggio, eccetera, eccetera, ed è una sfacchinata immonda. Sì, addirittura non trovi parcheggio. E lì dove c'è il coso, l'ispettorato, devi parcheggiare un bel lontano, non ce n'è la parcheggio. Vabbè, ma ci basti a Rizinco, basta ai 4. No, vabbè, già lo trovi, però non è che devi andare di lì, ce l'hai sotto per dire vai qua, città mercato, biglia e parcheggi, e chi mi devi, non ce n'è quasi mai parcheggio, per cui lo devi mettere a 300-400 metri in zona, perché rimane un po' sperduto il posto, allora, non è proprio dentro città, però siccome ci sono un sacco di attività, cose del genere di lì, c'è vicino l'aeroporto e tutto. Ah, per quello, beh certo. E vabbè, ma come stai dicendo, come hai detto tu, che se vai lì e cioè, riparti alle 5 da qua, la cosa è ci arrivi 7 e mezza, 8 meno un quarto, ma riparti un'ora prima, chi se ne frega, c'è un parcheggio, te ne stai un po' in macchina, ti riposi e sei più tranquillo. Non penso che arrivando un'ora prima lì non trovo un parcheggio. Sì, poi sì, però lì magari ci sono tutti gli operai, lì stanno sempre, io parlo anni fa, adesso non lo so, c'erano sempre imprese lavorando, facendo le costruzioni, cose, tipo come vai nella zona industriale, era una cosa così, era sempre pieno di mesi di lavoro, di cosa, e lì diventano presto a lavorare. Beh, è così, dai, comunque ci si è riuscito, roba, andava, va bene, dai, almeno. Poi magari quando capita che ti fai qualche prova, adesso anche VHF, me lo fai sapere, lui ti ascolta. Sì, assolutamente. Ma poi sono contento perché, a parte molti mi hanno rifatto gli auguri, tu in particolare, prima di tutti, vabbè, Claudio è stato il primo perché io non ho detto niente a nessuno, lo sapeva solo lui, poi gli altri, di conseguenza, poi diciamo sono stato contento di questo, veri amici, poi mi hanno fatto Marco, Walter, Fabrizio, tutti qua, mi hanno messo anche nel gruppo, mi hanno aiutato, mi aiuteranno, Gianfranco, lo stesso mi sta dando una grande mano per tutti i sistemi digitali, tutte quelle cose lì, e quella è una bella soddisfazione, vuol dire che qualcosa mi hanno apprezzato, dai, perché magari ti biglia battente e dite tu che sì. Certo. Piano piano, ti mettono i programmi del computer. Sì, ma ne hai salato poca di roba. Tu cosa fa Gianfranco? Ti mette la mano in testa, Luca. È micidiale, cacchio. Su queste robe digitali ne sa troppo, è una cosa impressionante. Lui. Poi lui di quelli appassionati di ascolto, me l'ha fatto vedere poca, ma decine e decine di cose, non le classiche chiavette, cose che ti trasmettono cose molto molto più importanti. Sì, però non caricarlo molto il computer di roba, non è che cioè, puoi pretendere. Tu e me abbiamo fatto la prova con quello grande, con l'apparecchio grande, perché abbiamo messo una scheda audio esterna, c'è cioè l'ingresso micro, l'ingresso cuffie, e lui mi ha fatto vedere tutto quello, come trasmetti, scrivi, cioè tipo come facevo con l'alfabeto vostro, però puoi scrivere, puoi mandare immagini, tipo la vecchia RTTY, quel sistema di lì, PSK3, ci sono una marea di sistemi, no, memoria non ne occupa Luca, è zero assoluto, sono sistemi di decodifica e basta, digitali, che usi l'apparecchio, perché poi l'apparecchio quello nuovo, il grande, quello lo attacchi e ti appare sul monitor tutte le funzioni eccetera eccetera, ma tu non immaginavo che facessero tante di queste cose, questi apparecchi qua, ma poi informazioni da tutto il mondo, cioè non dire cose vicine, anche dall'altro giorno eravamo Indonesia mi sembra, cacchiera, poi Olanda, Brasile, cose particolari che non conoscevo, sapevo esistevano però non le avevo mai viste in realtà, era veramente interessante. Sì, e robe, piano piano dai, ti prende la mano lì, non è come il baracchino, è brecco brecco, lì devi, io molte volte li ascolto, vabbè sono un più. Tipo io ascoltavo molto, non stavo facendo roba, no? Qualche riparazione, ascoltavo molto Link Nazionale, non so che frequenza abbia adesso, boh, non li ho più sentiti. No, di quelle cose non sono aggiornato, mi devo far dire tutto da chi è pratico, per le V, le U, eccetera, perché non ne so, in cosa non mi ascoltavo qualche volta in 20 metri, in 40 metri, ma altre cose io ascoltavo, mi divertivo più su altre cose, dai. Però adesso mi dovrò abituare a aprire i punti, eccetera, prima di tutto l'antenna di polo, perché quello mi voleva anche a livello di soddisfazione, dice esci che voglio fare un collegamento, primo collegamento in HF, perché io non ho mai utilizzato la radio, pur avendo la possibilità di farlo non potevo andarci e non l'ho mai utilizzato, eppure le VLU già è abbastanza semplice, ho questo apparecchio qua che già fa tutto. C'hai quello veicolare? C'è? No, c'è una stazione base che fa le 4 bande, eh. Ah, ho capito, è bello quello. Sì, e no, perché non piano, è come antenne come si è messo? Per il momento ho le antenne per le V, le U, poi ho la mantova che posso fare qualcosa senza scendere giù, un pochettino accordando, poi Claudio mi dà quel dipolo, poi ho, anche se non lo so, adesso non la piazza, non ne metto perché non mi serve, l'antenna dei 6 metri, Claudio, e poi ne ho una degli 11 metri che dice si può adattare, come quella che l'aveva dato a lui, quella che mi aveva dato Kawasaki, gli avevo fatto scambio, e la adattiamo per i 10 metri, ma solo per averle quelle lì. La cosa che mi interessa sono le V e le U, che ho quella bimbanda che mi ha dato Claudio 3-4 anni fa, forse anche di più, però è montata male, attaccata al palo della mantova e non va bene, l'avevo togliere da lì. E poi ho un'antenna 5 bande che l'avevo messa, enorme, però non mi piace, quella infatti se trovo qualcuno se la compra, perché si prende troppo vento, si piega. Beh certo. E per quanto riguarda come si chiama, la VHF o HF? Allora, io ho un veicolare nuovo, uno l'ho dato a Claudio, l'altro il piccolino che avevo, questo è un Alinco, diciamo, però le VLU le faccio, in diretta ho il 711 che funziona a 220, però non ha il tuner, e più ho quello grande che mi fa le VLU, oltre le HF 50 MHz, il quadribanda, e poi ce n'è uno che è rotto, quello lì infatti lo devo vendere. Lo venderò come pezzi di ricambio, l'820H della Icom, quello lì è bello, un bellissimo apparecchio, purtroppo c'ha dei problemi, uno non è riuscito a ripararlo, per cui o si manda a qualche laboratorio specializzato o se no lo vendo così, visto e piaciuto, è nuovo, me l'aveva dato Claudio in scambio con altre cose, però è bello, peccato che quello lì è un bimanda da base. No, ma quello che ti volevo dire io è come antenne, cioè con le antenne VHF, su VHF come sei messo? C'ho la bimanda come si chiama? Adesso Diamond mi sembra che sia, forse ce l'hai pure tu, ce l'ha uguale Claudio, quella che fa le vuole quel tubo in vetroresina con i radialini piccolini in acciaio inox, uguale tu ce l'hai o sbaglio? Ah, la X30. X30, sì. E cosa fai con chissà? Infatti, quello lì è il dubbio. Claudio ha detto che con quella lì lui riesce a citare i punti. Adesso vediamo un po', se no poi già si prende qualcosa, tanto già costano poco le antenne per le VLU. Magari se ne prende una più grande, capito? Quella più grandetta. Sì, diciamo che già è buona, io già ricevo bene, a voglia. Ma i punti hai provato se riesci a citarli? No, ci ho mai provato, non so ma come si fa. No, perché Claudio ha detto già ce la vorrei fare, forse quello di Monterasu, bisogna vedere, bisogna fare la prova con quello. Ma io penso di sì, lui è più alto di me, 100 metri più alto di me Claudio, però può darsi che riesca a farlo anche io, se no pazienza, se no si mette una piccola direttiva, tanto le direttive per le U e le V sono piccoline, soprattutto per la U è tipo un'antenna di televisione. Ma ti mettono di quelle. Sì, ma per quanto riguarda quel tipo di antenna, secondo me ci vuole la, non mi ricordo come si chiama, c'è l'X30, l'X50, l'altra più grande. Sì, Lu, però tieni presente, io sono novellino, cioè sto iniziando adesso, devo ancora aspettare che mi diano nominativo, figurati, per cui finiscono piano piano, l'hai visto la stazione CB, ho iniziato da niente e poi piano piano me la sono fatta bellina, è così, non dico di arrivare ai livelli di quelli grossi che conosci tu, che quelli non sono inarrivabili da parte mia, quelli sono professionisti, io sono un dilettante confronto a loro, però mettiti in condizione di fare qualche cosa, dai, senza arrivare ai limiti di quelli lì, che quelli quando vedo le antenne mi metto le mani in testa senza far nome di qualcuno, mamma mia, però loro sono grandi appassionati, io ho altre passioni, per cui questo è un divertimento, uno dei divertimenti miei, non è niente di più. Sì, che non abbiamo robe, dai, fa le prove tutto quanto, poi quando sarà, una volta che prendi la mano e parte, poi diventa un gioco, penso, e poi boh. Oh, vediamo un pochettino, dai. Sicuramente mangiare non me ne dà, è solo come ho detto io, è sempre un divertimento, così quando vuoi fare qualcosa per non stare buttato attaccato, vabbè io alla televisione non ci sono attaccato, ci sono quelli che in casa rimane attaccati alla televisione, al computer, cosa, dai, non ti bruci almeno gli occhi, con questo parli con qualcuno, ti togli qualche collegamento, eccetera, eccetera. Da sempre da piccolino, sicuramente se l'avessi presa nel 2012 quando ho fatto l'esame, a quest'ora avrei avuto tante cose, però anche quando ho fatto il baracchino ho iniziato con quel portatilino che mi hai ascoltato tu, infatti ho detto sempre, il mio battesimo è stato con Luca, il mio padrino in 27, e in HF, cioè in banda radio amatoriali, è Claudio, per cui ho detto il primo collegamento deve essere con Claudio, il primo a saperlo è stato lui, contentissimo, infatti mi ha fatto anche piacere, è stato il primo a farmi gli auguri, e poi tutti Fabrizio, Marco, Walter, una varia di gente. Certo. E a me mi conviene, sai, ci conviene a te quando hai il foglio in mano, no? La patente. Fare proprio con loro, con Walter, con Fabrizio, con quelli, così ti insegnano un po' di cose. Assolutamente, ma poi mi hai iscritto al gruppo Fabrizio, c'hanno un gruppo loro di radioamato, e che a bocca di niente, tutti auguri, auguri, adesso ti aspettiamo qua, là, eccetera, eccetera. Sono anche, diciamo, soddisfazioni per quello che si possono dire soddisfazioni, dai. Sono molto appassionati loro, sicuramente molto più di me, molto più addentrati, ogni tanto me, ho visto che continuamente buttano fuori delle immagini, collegamenti, antenne, tipi di cose, di modifiche, eccetera. Poi Fabrizio è stato super attento, nel senso se ti serve qualcosa, a me ti faccio qualcosa, cioè tutti, ti posso dire chiunque, Marco Scorpio non ne parliamo, mi ha detto qualunque cosa, poi ci dobbiamo sentire con calma e vediamo, poi non parliamo di Gianfranco, tutti disponibilissimi e sono contento di questo perché non me l'aspettavo io un'accoglienza così, dai. Vabbè, così poi vedete un po' e poi ti dovrei attrezzare magari di qualche amplificatorino, vabbè, per andare fuori. Ma guarda, sinceramente non è una cosa che mi freghi più di tanto. Stavo parlando con Marco, mi ha detto anche con un 140 tu puoi andare da qualunque parte. Naturalmente se devi fare cose particolari, collegamenti in isole remote, quando ci sono questi contest, attivazioni e cose del genere, devi, se non hai potenza neanche ci arrivi. Però dice con un 140 c'è gente che ha una stazione, un 140, un dipolo, e parla con tutto il mondo. Poi ci sono quelli che hanno la maniera a forza, come qua in 27 qualcuno ce la può avere. A me già mi avete visto, io usavo la potenza i 10 watt, non di più dell'apparato, non ne ho mai usato di più, non me ne ho fatto nulla, e mi ascoltate tutti. Che bisogno c'è poi di arrivare a farsi sentire 940 a Porto Torri? Che cacchio mi frega, qua mi ascoltano tutti, che conta l'antenna, c'ho una buona posizione, speriamo che sia buona anche per quel tipo di frequenze. Questo non lo so, sino a quando non si vedono non si può, cioè sino a quando non si piazzano non si può vedere, poi vediamo un po'. Poi se non mi ascoltano vuol dire peso per loro, dove ti dico? Piano piano mi fate un gruppetto tra di voi, poi io già li ascoltavo a Walter, a Marco quando entravano a 525. E loro ci vanno spesso in V, ci vanno parecchio, infatti ci sono sentiti l'altro giorno, e lì l'hanno pubblicizzata anche la roba che sono stato coso. Fabrizio poi ha messo un coso in questa chat, e lì subito tutti mi hanno fatto gli auguri, complimenti. Perché in 40 metri e 20 metri mica si ascoltano qua tra di loro, non riescono a sentirsi tra così vicini. Ci vuole il dipolo. Che magari non riesci a sentirti, perché sono talmente vicini su quelle bande lì, non è detto che magari ti ascoltano, magari ti posso dire in Spagna, e magari a uno che c'è a 30 km non ti sente. Sì, ma per quella frequenza lì ci vuole il dipolo. Sì, è certo, le verticali sono troppo grandi, però io ce l'ho una verticale accordata, diciamo, cosa del genere, non è che rende tantissimo, però il dipolo ci vuole perché sono lunghe seconda troppo grandi, per cui se le accorci troppo le antenne, non sei come gli 11 metri, che qua con un'antenna di 5 ottavi riesci ad andare di lì, se vai in 80 metri dovresti avere un'antenna di teoricamente di 80 metri, se la fai a mezz'onda di 40 metri, ma sono di dimensioni talmente grandi, per quello devi mettere i dipoli in orizzontale, per quel motivo lì le antenne è solo quello. Se invece c'è Radio Vaticana le puoi mettere anche in verticale o a polarizzazione circolare, poi vai su di voi. Ma i radioamatori sono tutti con antenne filari, a meno che non c'ha le mega antenne tipo Walter, che c'ha un'antenna di 20 metri di boom. Che infatti c'è una gigantesca. Vabbè, tu la vuoi, come posizione la sei messo bene, a voglia, con la tua posizione lì. Vabbè, piano piano, dai, passo per passo, non fare le cose di fretta, che se no pure magari è un casino. E poi, vabbè, a parte il dipolo devi piazzare altre antenne, no? Non ho capito. Ho detto, a parte il dipolo devi piazzare altre antenne. Allora, io l'antenna, prima di tutto il dipolo, poi voglio migliorare le VLU, perché secondo me sono un po' critiche con quell'antennino, ma lo so, c'è da dire che adesso è attaccata al palo della manta, ormai sono di quegli affari AU delle antenne paraboliche, cioè presente quelle taffe AU, e l'ha attaccato sul palo della manta, ma è troppo attaccato, i radialini stanno toccando quasi sul palo, per cui non irradia bene l'antenna, la devo mettere in un altro palo e fare la prova. E poi, come ha detto Claudio, ci abbiamo pronta l'antenna dei 6 metri, che me la dà lui, e intanto non se ne mette. Anche se 6 metri non ve nessuno, però ce l'hai. Poi c'ho l'antenna degli 11 metri, accorciandola si può diventare dei 10 metri, messe una sopra l'altra con un motore. Quando sarà, io c'ho il motore, però non serve a nulla, va bene per antennine piccole. E quando ci saranno le possibilità, magari si mette un rotore, però quello magari se Dio vuole nell'altra stagione, nella buona stagione e basta. Poi non credo, direttive vediamo per le VLU, ma non lo so se sia necessario, perché se attivi i punti futidini, cioè non è che ce l'hanno tutti i radioamatori, a meno che non sono quelli professionisti che lo fanno proprio attività vera, io lo farò così finché ci sarà il tempo di farlo. Beh certo, e prima o poi già quando te c'è il nominativo, Robert, puoi già partire, ti fai, insomma, tre volte io ascoltavo Nick Nazionale, no? Faceva, sapevo, questo disturbatore, pernacchi, metteva registrazioni, cioè prendeva per i fondelli. insomma, a te volte mi viene la voglia di entrare e dirgli cosa questo qua, ma non mi sono mai permesso, a parte che non posso, però sai che fastidio, guarda, proprio ti veniva il coso di entrare e dirgli cosa. E quelli che ha messo io, finché uno ti dice la pernacchia fa così, disturba e finisce, quelli che ti mettono la musica e occupano la banda per ore, quelli che non sopporto, lo fanno apposta e ti mettono sopra la banda a piena potenza con la musica, radioamatori, vabbè, adesso sono radioamatori, ma che sono pirati. Ma li cacciappani, sai casini che passa? Non lo so, però cazzo, intanto rompono le scatole a chi lo fa per passione seria, no? Per rompere le scatole. E come qua il CB, vabbè, adesso qua sinceramente non ne sto più sentendo, ma qualche periodo da c'era, già te lo ricordi, portanti, qualcuno faceva le permesse, stasera anzi ad Antonio gli hanno fatto la pernacchia, poi quando poco fa hai parlato tu un paio di colpi di portante, che non, è un segnale che non conosco perché era 9.40, qua 9.40 non ce n'è che arrivano, c'era solo un periodo quando attaccava Marco, come si chiama, Condor, cioè arrivava a 9.35, attaccata arrivava a 9.40, perché gli altri sono o superiori a 9.40 o inferiori. 9.40 non, a memoria mia non ne ho di segnale. Certo. Poi quando fai le prove, robe, tu magari ti sale il flash, ti compri un lineare da 1 kW. Magari, no, sinceramente vivo pure la corrente, se attacco il kilowatt devo aumentare la corrente di casa, non me ne fotti nulla. Cosa già ce li hanno gli amici, quelli che hai nominato tu prima, quelli c'hanno anche 5 kW, io l'ho visti, mi ha mandato il video, non so mai andato a casa sua, però c'è un armadio e quel lineare da 4,5 kW, una bestia, però dice quando fanno certi tipi di collegamenti, di attivazioni di isole nel Pacifico, che devi parlare a quell'ora lì, se no ci sono 1 milione di persone collegate, lì chi entra più forte, perché c'hai un piccolo spazio di tempo e devi per forza entrare e farti sentire, ti rispondono un secondo, sì, QSL, tac, e registri, e così prendi punti. Che nubiano, robe, senza breve, fatta già non ne hai, no? No, assolutamente, tutto con calma, molto molto delicatamente, non ti preoccupare, chissà. Aspetta, lasciamo un attimo nel bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, tanto un paio di minuti e poi stacco anche io. Avanti su 10 che vuole entrare. Adesso c'ho il QRM a 5, meno male, mica che qua minimo è a 6-7 il QRM, a quest'ora 5 e va benissimo. Che molte volte, qua io dicevo i segnali furti, però devono essere sopra l'8, se no quando sono 7 molte volte non riesco a tirarli fuori. Io non ne ho QRM a 0, sta a 0. Ogni tanto ho questo piccolo disturbo, tipo così, però a 2, non di più. Guarda, di questo apparecchio qua, di questo 44, sono pienamente soddisfatto. C'ho altre due radio molto ma molto superiori, ma 10 volte tanto, soprattutto l'ultima. E ti posso dire, grossissime differenze non ne vedo in ricezione di quella trasmissione. Tu mi direi che quelli, quando, se non c'è segnale, rimangono, come si chiama, muti, se c'è il QRM basso non lo senti, qua invece lo senti proprio shh. Però ho fatto prove di segnali bassi, proprio in propagazione bassa, e ti posso dire, non vedo grossissima differenza. Questo me l'aveva fatto Fabrizio, gli ha sostituito tutti i condensatori, un gruppo, facendo le corna, ce l'ho già da qualche anno, un treno, perché c'hanno il difetto questi qua, ogni tanto si creppavano i caratteri, sempre andando, sempre funzionando, l'ho lasciato anche mesi e mesi spento, non si è mai, non mi ha mai lasciato a piedi dall'ultima volta che l'ha riparato Fabrizio, gli ha cambiato tutti il gruppo dei condensatori, e poi nuovo, questo era di una persona, non ti posso dire il nome, è dentro nuovo, però ho fatto problema e l'ho rimesso a posto, ed è un treno, infatti come ricezione è una bomba, trasmissione magari non lo so, perché rispetto agli altri che sono un po' più stretti, diciamo, come emissione, perché l'ha provato Gianfranco, però ricezione posso dire è ottimo questo qua. Aspetta, come è radio si è attrezzato? Sì, già ce li ho, già te le dico con calma, non adesso qua. No, giusto così, insomma sei quasi pronto, dai. Allora, io ho questo qui che uso sempre, poi ho il top dell'epoca, pensa a cosa può essere, quello grosso, che ho fatto un affarone, me lo sono regalato a Natale scorso, e poi da poco, qualche mese, c'ho un apparecchio di generazione successiva di quelli digitali, di lì ho fatto lo stesso un affarone tramite Claudio e un altro amico, ho dato una radio e mi è venuto quasi poco, quasi zero, una radio che vale il doppio di quanto l'ho pagato, più del doppio. Ma che ne sono, boh? Sono le 10:30, mi sa che ce ne andiamo a cucarsi. Luca, dai, interrompo adesso che domani si travacca. Ti ringrazio per questo, dai, ci sentiamo con calma e ci aggiorniamo. Ciao, ciao. Ciao, Robe, anche io avevo preso l'antibiotico poco fa. Ma senti, quasi mi sono lenza. Infatti ogni tanto mancavo, poi mi ci davo di goi. Ciao, Robe, dai, ci aggiorniamo domani. Ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao.